osserva il movimento, punta sul rosso, punta di più. È nella mente che il rischio è consistente, l'esistenza questo costante presente. Pertanto non opporre l'esistenza, non opporre. Il mare, la moltitudine si fa governare, il rumore copre le idee, pericoloso chi sa pensare. La baraonda ci sprofonda, essenziale era.